Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Non conto più gli schiaffi e i pugni che mi sono preso da lui. E ogni volta era sempre la stessa storia. Tornavo a casa e la rabbia saliva. Lo odiavo, ma soprattutto odiavo me stesso. Perché mi dicevo non sei capace di reagire? Fino a quella mattina. Nicola, come al solito, mi provoca, così, senza motivo. Solo che questa volta la mia reazione ci fu. Un pugno, dritto al volto. Ciao, sono Stefano, ho 34 anni, sono nato e vivo a Napoli. E niente, nella vita faccio il ricercatore e il fotografo. Quasi mi sento più fotografo. Sono le 16:07 minuti, quasi 8, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e il programma si chiama Voi siete qui. Ogni giorno raccontiamo una storia diversa, la storia di qualcuno che ha voglia di condividerla e che ce la manda a Voi siete qui, @radio24.it, in una pagina. Quello che chiediamo è un racconto che racconti qualcosa di voi, di un episodio della vostra vita. Ed è il caso lampante di Stefano, che ci racconta un episodio della sua infanzia, di quando di fatto ha fatto sentire la sua voce. Invece che rimanere in silenzio, in questo caso, in quel caso lì, in quell'ambiente, a quell'età, in quell'epoca, rimanersene zitto dopo uno schiaffo o un pugno, ha reagito, in quel caso fisicamente. Oggi però non parliamo solo di questo, parliamo delle volte in cui è utile fare sentire la propria voce e quando lo avete fatto. 349-238-6666, oppure il profilo Facebook, che è sempre quello, è Voi siete qui, Radio 24. Esther mi dice: ho fatto sentire la mia voce quando ho portato in tribunale il mio ex capo e ho vinto la causa. Federica: ho tirato un vassoio di cannoli siciliani in faccia al mio ex, che non si capisce se era già ex oppure no. Massimiliano: alle scuole elementari, dopo anni di bullismo, ho fracassato di botte. Ammazza, ragazzi. Cioè, piano, Massimiliano. Non so, è che forse un pugno, uno schiaffo fa meno effetto. Ho fracassato di botte un tizio e anche le maestre dissero che era giusto. Ogni tanto capita. Io mi ricordo alle scuole medie, in seminario, al seminario di Novara, avevo questo insegnante di matematica, Don Alberto Brentegani, un prete, un omone grande grosso, che tutti i giorni pigliava il treno da sopra Lago Maggiore e arrivava a scuola a farci lezione. Era uno di quei pretoni buoni, proprio, per cui l'unica volta che se la prese è quando gli facemmo lo scherzo perché venne a farci supplenza al tema di italiano, doveva solo controllare che non copiassimo, si addormentò e noi al 5 insieme aprimmo il dizionario, 3, 2, 1, PUM! E lui saltò sulla sedia dicendo: vi boccio tutti. Al di là di questo, era proprio un bravo uomo. E una volta, credo, il Migliorini ridiede uno schiaffo a un altro compagno di cui ho perso purtroppo le tracce, che però era abbastanza molesto, e Don Alberto disse: mi togli un attimo la base, non si fa, però quando ci vuole. 349-238-6666, voi siete qui, @radio24.it. Questa qua, dov'è? L'ho perso. L'ultima volta che ho fatto la voce grossa, mi sono fatta sentire, è stato tantissimi anni fa. Avevo circa 12 anni. Io sono la penultima di 8 figli. A casa mia, quando mia mamma non c'era, la più grande voleva a tutti i costi sottomettermi. Io ho un bel caratterino e quella volta mi rifiutai a fare qualcosa. Mia sorella mi minacciò di tirarmi una ciabatta se non avessi ubbidito. Allora mi misi davanti alla porta vetrata e la incitai a lanciarmi la ciabatta se avesse avuto il coraggio. Fine della storia. Io mi spostai e lei ruppe il vetro. Quando arrivò a casa mia mamma mi diede una sberla, invece mia sorella disse di piantarla, di farla prepotente in sua assenza. Da quel giorno tutti mi lasciarono un po' in pace. Però non ho capito, Liliana, scusa, tu ti sei scostata, quella ha rotto la vetrata e però tua madre se l'è presa con te. Vabbè, tant'è. Patrizia: quando non ho più parlato e ho avvolto la controparte in una freddissima indifferenza. Trovo che il silenzio sia più assordante di qualsiasi altra voce. Tant'è, in qualunque modo avete fatto sentire la propria voce, in qualunque situazione avete deciso di alzarvi in piedi e dire la vostra. 349-238-6666. Tutto perché Stefano, un bel po' di anni fa, in un quartiere fuori Napoli, ha fatto questo. Sono nato 34 anni fa a Napoli, in un quartiere popolare e difficile della città. Avevo circa 6 anni quando mia mamma cedette. Cominciò a, come si usava a dire, farmi scendere giù. Farmi scendere giù significava andare per strada insieme agli altri ragazzini, di tutte le età, alcuni più piccoli, altri miei coetanei, altri ancora un po' più grandi. Quello che però li accomunava tutti era il fatto che fossero anni luce più svegli di me. E io non ero certo uno che dormiva, ma loro erano, seppur dei ragazzini, ben più vissuti di me. E anche un bel po' prepotenti, devo dire, e pronti ad alzare le mani. Anche solo per dimostrare la loro forza, per stabilire le gerarchie del branco. Gerarchia che vedeva me, ovviamente, sempre all'ultimo posto. Ero anche un tizio sveglio, intelligente, ma non ero in grado di alzare una mano, fosse stato anche solo per difendermi. Non lo so cosa succedeva, mi bloccavo sempre. Io riuscivo a sopperire con il mio essere furbo al fatto che gli altri fossero più forti di me. In genere a Napoli per vicoli si intendono più i quartieri spagnoli. A me sì, sono vicoli, ma è un quartiere quasi, quasi di primissima periferia, anche se proprio attaccata alla città. Si chiama Pianura il quartiere. Però ogni volta che c'era una disputa io avevo la peggio. Così come ogni volta che al prepotente di turno gli girava, io ero uno dei bersagli preferiti, avendo con me la certezza di una non reazione, fino a quella mattina di primavera. Avevo più o meno 15 anni e giù per il viale imperversava la prepotenza di un certo Nicola, alto, più di me, più di quasi tutti noi, e grosso, molto grosso, e violento anche, di una violenza gratuita. Una violenza che lui usava anche solo per divertirsi. Non conto più gli schiaffi e i pugni che mi sono preso da lui. E ogni volta era sempre la stessa storia. Tornavo a casa e la rabbia saliva. Lo odiavo, ma soprattutto odiavo me stesso. Odiavo me stesso con tutto me stesso, perché mi dicevo non sei capace di reagire. Fino a quella mattina. Nicola, come al solito, mi provoca, così, senza motivo. Solo che questa volta la mia reazione ci fu. Un pugno dritto al volto. E lui steso sul cofano di una macchina. Steso più che per il dolore fisico, per l'umiliazione di quel gesto inaspettato. E da me, poi. Fin lì, col suo orgoglio steso insieme a lui, arrivò la fine di questa storia. Se ne andò a casa come avevo fatto io, per un numero di volte di cui avevo perso il conto. Lo rincontrai solo un paio di giorni dopo, con lo zigomo di un occhio diventato nero e leggermente gonfio. Appena mi vide mi disse qualcosa con prepotenza, ma non era più la solita, no. Quella volta mi attaccava forzandosi di conservare le gerarchie avute per così tanto tempo. Ma quel pugno, oltre a stendere lui, aveva steso anche tutte quelle gerarchie. La vita era quella dei bambini classica che si faceva 30 anni fa, in cui non esistevano chiaramente PlayStation e cose varie, ma si viveva aspettando appunto che finisse la scuola, si scendeva giù per strada, si giocava a pallone, a calcio. Poi l'altro che si faceva, oltre a giocare a calcio, era fare un po' i ragazzetti di strada, no? Un po' di... noi li chiamavamo i guai, che poi non era niente di cattivo, eh? Marachelle da scugnizzi, ecco. Mi si rivolse contro dicendomi «Questo non me l'hai fatto tu», indicando l'occhio. Ciò che mi disse e il modo in cui lo fece furono invece la conferma di molte cose. Innanzitutto fu la conferma che effettivamente ero stato io. Ma soprattutto fu la conferma che lui, Nicola, e tutti gli altri ragazzi del viale, da quel momento in poi, cominciarono a temermi. E a portarmi rispetto. Perché tutti, in quel preciso momento di quella mattina di primavera, capirono che io non avrei mai più consentito a nessuno di trattarmi in certi modi. Ed è stato così. Non solo con Nicola. Non solo con i ragazzi del viale, con tutti. Tutti, una lezione che mi ha dato sicurezza e tranquillità, che mi ha consentito di affrontare la scuola, la leva, i primi lavori, poi l'università, la laurea e altri lavori, financo il dottorato. Tutto. Io, da quella mattina di primavera in cui ho dato quel pugno, non ho più avuto timore di pretendere rispetto. All so good, and he's all so fine, and he L'attimo fuggente l'abbiamo visto tutti. E ci siamo tutti alzati in piedi sul banco dicendo «Capitano mio capitano» insieme a tutta la classe che vedeva uscire Robin Williams dalla porta, licenziato perché insegnava in modo non ortodosso in un college inglese. E quel gesto lì fa venire i brividi perché significa mostrare la propria posizione, la propria disapprovazione, in quel caso, la propria opinione. E farlo in una situazione che ti reprime, come quella rappresentata in quel film, è altrettanto difficile che mettersi davanti al carro armato in piazza Tiananmen, più o meno. Vuol dire mettere in pericolo la propria serenità e la propria normale vita per dimostrare di avere un pensiero proprio e la forza per sostenerlo. Ovviamente se tutti vivessero con il bisogno di dimostrare quanto sono forti, saremmo ancora nella giungla, ovviamente, o nel Far West. Però c'è un momento nella vita di ognuno di noi in cui ci si rende conto che è necessario compiere un gesto per non sentirsi impotenti o dei vigliacchi. Può accadere da bambini come a Stefano o da adulti. Non si può programmare. Forse molti di noi non se lo ricordano, quel gesto, ma sappiamo che è capitato. Nelle strade di Napoli, tra gli scugnizi, come li chiama Stefano, alzare le mani era un modo per comunicare e quindi non stupisce in fondo che sia stato un pugno a mettere a posto il prepotente e a fargli capire che non poteva più prendersela con lui solo perché era l'obiettivo più facile. Ma fortunatamente nelle situazioni più adulte e con più convenzioni, con più regole sociali, usiamo soprattutto la parola o anche dei gesti semplici per comunicare il nostro bisogno di essere rispettati. A volte anche con aggressività, o più spesso con il semplice istinto della sopravvivenza. Perché in ufficio la smettono di trattarti come una pezza da piedi, ad esempio, o perché sul campo di calcetto non ti prendano in giro perché non sei Maradona. Perché chi ti supera in coda al supermercato sappia che tu pretendi che i tuoi diritti siano rispettati, anche quelli che sembrano piccoli e insignificanti. Insomma, io non sono uno che fa a pugni, e non lo ero nemmeno da piccolo. E non mi ricordo quando ho avuto il momento in cui ho alzato la voce per farmi sentire. Ma è anche vero che io sono in una posizione abbastanza fortunata e attirare l'attenzione è sempre stato un po' la mia prerogativa. Palcoscenico, microfono, ti consentono entrambi comunque di avere spesso la sensazione di avere il coltello dalla parte del manico. E questo significa che non sento di subire ingiustizie, più o meno, e forse non ho tanto bisogno di chiedere rispetto. Mi viene però più facile ricordare tutte quelle volte in cui non l'ho fatto, soprattutto quando ero più piccolo. E non l'ho fatto un po' per paura della reazione degli altri e un po' per paura della mia. Perché quando dai fiato alla tua rabbia, al tuo bisogno di rispetto e di giustizia, a volte esageri. Però te ne accorgi solo dopo. Due 38 66 66. Due anni fa, mi scrive Marco, mi sono ribellato alle richieste illegittime dei miei superiori e oggi lavoro in un'altra azienda. Olè, voi siete qui, @radio24.it. Oggi si parla di tutte le volte che per un motivo o per l'altro vi siete alzati in piedi. Come era? Stand up for your right. Di chi era quel pezzo, Tiziano? Di Bob Marley? Però c'era una versione anche dei Beastie Boys, no? Stand up for your right. 349-238-6666. Fight for your right. Sicuri? Ok, vabbè. Niente, facciamo finta di nulla e andiamo dritti da Stefano, che qualche anno fa in un quartiere periferico della città di Napoli si è fatto sentire. Pronto, Stefano? Pronto, buonasera. Ciao, come stai? Bene, bene. Senti, dove ti trovi adesso? Al lavoro? Ho fatto una fuga per parlare con voi. Mi ricordi che cosa fai? Tu sei un ricercatore universitario, giusto? Sì, mi occupo di ricerca nell'ambito informatico all'Università di Napoli. Ma scusami, so che è complicatissimo spiegarlo, sì. Però tipo stamattina cosa hai lavorato? Stamattina ho lavorato, in questo momento mi sto occupando di un progetto insieme a una casa automobilistica, non facciamo i nomi, ma è facile. è facile capirlo se sto a Napoli. Sì. E niente, da un punto di vista pratico, proprio per farla semplice, ci occupiamo di tutta la fase che va dalla progettazione all'implementazione delle centraline dell'auto. Sì. Ok. Quindi vanno bene. Quindi se c'è un problema con la centralina della Punto, sappiamo che rivolgo. Non è colpa tua. No. Ok, senti, invece Stefano, mi veniva in mente, perché tu parlavi proprio di gerarchie, no? Rispetto alle strade di pianura, hai detto che si chiama pianura, il tuo quartiere. Sì, dove abiti ancora, giusto? Abito ancora lì, sì, esatto. Ed è un quartiere residenziale, però è popolare. Un quartiere residenziale, sì, molto popolato. Soprattutto ha avuto un boom negli ultimi 30 anni in cui c'è stato abusivismo edilizio, e quindi è... Ma non è, non è dalla parte del Vesuvio, pianura? È... No. È più verso... pianura è vicino Fuorigrotta. Si trova che su quartieri magari più conosciuti, Fuorigrotta, Vomero... Ok, più o meno... Magnoli, Pozzuoli, è tutto intorno. Vicino, diciamo. Mi dicevi prima, vicino allo Stadio San Paolo. Vicino allo Stadio San Paolo, sì. Da casa mia allo stadio sono 4 chilometri circa. Quindi, dicevamo, c'erano delle gerarchie molto forti che un gesto altrettanto forte ha rotto. L'università è un posto in cui ci sono delle gerarchie ben precise, giusto? Sì, ma parliamo di gerarchie un po' diverse, credo. No, beh, lo immagino, però punto di vista. La domanda era, hai mai dovuto far sentire la tua voce? Non prendere a pugni, chiaramente, il barone di turno, ma hai mai dovuto far sentire la tua voce, chiedere rispetto per il tuo lavoro? Devo dire che io sono... Fortunato. Mi considero fortunato sotto questo punto di vista, perché nel mio team di lavoro... tutti i professori baroni che mi hanno seguito in realtà non sono baroni, proprio come comportamento, seppur come titoli lo sono. Okay. No, non c'è, siamo fortunati su questo, alla nostra facoltà. Siamo molto, molto... C'è la gerarchia, chiaramente, che è dovuta proprio al grado, diciamo. Beh, ma quella che c'è più o meno in ogni posto di lavoro, più o meno, quindi... Ma non esiste, anzi, una delle prime regole è che tipo ci diamo tutti del tu. Anche gente molto più anziana, professori che sono lì da tanto. Carissimo, collega, così, proprio... sì. Senti, invece, torniamo là a pianura, visto che tu ci vivi ancora. Vivi esattamente nella stessa casa? Cioè vivi con i tuoi? Sì, esattamente nella stessa casa. Cioè, hai ancora la cameretta? Vabbè, ancora per poco. Perché poi a volte invece... l'abbandono, poi non ci sono, okay. Però è la mia base, diciamo. Ok, quindi quando torni a casa sei esattamente lì dove ci racconti di essere stato quando 15 anni fa, più o meno, no? 20 anni più fa. A questo punto, 20 anni fa. 20 anni fa. Nicola, gli altri del viale, li vedi ancora? Allora, a qualcuno li vedo ancora. Anche se non li vedo, comunque ho sempre notizie loro. Non li vedo perché ovviamente ognuno ha preso la propria strada, in tanti sono fuori Napoli, all'estero. E guarda, noi adesso ci troviamo in una situazione privilegiata, cioè quella di avere visto un frammento della tua e della loro vita 20 anni fa e di vederla adesso. Che fine hanno fatto? Nicola, che cosa fa? Nicola è una ditta sua di latticini. Ok, mozzarelle di bufala, immagino. Mozzarelle, esatto, sì. E gli ha, dimmi un altro ragazzo del viale, che io me lo immagino, che so io, in giro per strada a tirare sassi ai bidoni dell'immondizia. No, non adesso, a 15 anni. Sì, a 15 anni sì, succedeva. E adesso invece cosa fanno? Uno c'ha un'azienda di mozzarelle... E adesso posso fare l'esempio di... C'ho diversi amici che sono cresciuti con me, che si trovano a New York ormai da anni. Hanno aperto attività anche loro, attività commerciali più o meno? Sì, ristoranti, quasi tutti nella ristorazione. Immagino. Senti, Stefano, ti ringrazio moltissimo per la storia e anche per, diciamo, gli aggiornamenti che ci hai dato sulla vita dei ragazzi del viale. Ti auguro grazie in bocca al lupo per tutto e facci sapere come vai in università. Va bene. Grazie Stefano, ciao, buona giornata. Dal momento che anche fotografo Stefano, oltre che ricercatore in informatica all'Università Federico II di Napoli, ci ha mandato una foto che è un autoscatto, ma un po' più da fotografo. È una foto allo specchio, ha la macchina fotografica in mano, all'altezza della pancia più o meno, con una camicia bianca addosso e dei pantaloni neri. La macchina immagino abbia improvvisato lo scatto, perché avendo appunto la macchina bassa non riesce a inquadrare bene l'obiettivo. Intorno a lui però è la cosa più interessante, più che lui che ha una faccia simpatica con i capelli cortissimi, che intorno a lui sembra una sorta di mausoleo africano, pieno di oggetti appesi, di maschere tribali, e tutto questo tra l'altro nella sua camerina di pianura fuori Napoli. Reagire. Replicare a un'azione o a una situazione esterna, specialmente violenta o dannosa, cercando di contrastarla. In fisica, di una forza. Operare in direzione e verso contrario a un'altra forza. In chimica, di sostanza. Partecipare a una reazione. Etimo, derivato di agire. Data 1785. Due anni fa mi sono ribellato alle richieste illegittime dei miei superiori e oggi anch'io lavoro in un'altra azienda. 15 anni fa mi sono ribellato allo sfruttamento dei miei ex capi, me ne sono andato e sono diventato un loro cliente, ma alle mie condizioni. E poi ancora Giovanni, farsi sentire spesso però ha un prezzo, scrive, che è meglio conoscere per valutare bene la convenienza. Vabbè, insomma, questo è evidente. Poi qualcuno mi scrive, oggi ho voglia di fare un po' di schiaffi. Di fare un po' a schiaffi, si dice. Oggi voglia di dare un po' di schiaffi. È il T9 qua che provoca questi errori. Beh, guarda, però hai scelto, diciamo, il programma sbagliato. Cioè, insomma, lasciami fuori. Sono 52 anni che aspetto di poter dare quel pugno ai vicini, ai suoceri, alla moglie, al capo ufficio e tanti finti colleghi e amici. Aspetta, finti colleghi, non capisco esattamente cosa vuol dire. Tanti colleghi che si fingono amici, scrive Fabio. Ma quando riuscirò? Guarda Fabio, io a 52 anni ti consiglierei, ormai è andata. O al massimo fatti un corso di prepugilistica, o come si chiamano quelle robe lì, taekwondo, insomma, o la, no, come si chiama quella non africana, quella brasiliana che sembra una danza, la capoeira, che però lì non sfughi nulla, lì balli e basta. Però Bonini suggerisce, cos'è, tiro al piattello? Ho capito, la guerra simulata, il soft air, dici? No, vabbè, quando vai che tiri? Bonini, non vengono le parole. Il tiro a segno, Tiziano. No, sparare con la vabbè, insomma, fai quello che vuoi, Fabio. Però, secondo me, non è il caso di dare un pugno più a nessuno adesso a 52 anni. Però, a proposito di pugni, e a proposito di box o prepugilistica, va molto di moda la prepugilistica in questi anni. A Milano, in particolar modo, molta gente tirar pugni no. Però prepararsi per dar pugni sì. È un po' come, più o meno, no, gli eserciti. Fa la guerra? No, però ci stiamo preparando, ragazzi. Stiamo facendo un sacco di esercitazioni. A questo proposito c'è un libro, un piccolo racconto del 2006, scritto da uno scrittore, da un giovane scrittore italiano che adesso ha, credo, 34-35 anni, quindi è giovane relativamente. Oddio, per l'Italia è giovanissimo, ma tant'è. Si chiama Pietro Grossi, che è un bravissimo scrittore, che scrisse cose proprio da giovanissimo, cose molto belle. E tra cui questa. È una raccolta di racconti che si chiama Pugni. E nel primo racconto, che dà il titolo al libro appunto, che si chiama Pugni, racconta la storia di questo ragazzo che viene chiamato il ballerino perché è velocissimo sul ring, che però è una sorta di sfigato, cioè è quello che tutti considerano uno sfigato, e lui sul ring invece si trasforma, è il più forte di tutti, e, anche se la madre lo obbliga a suonare il pianoforte, è una sorta di appunto di cieca e sorda vendetta la sua, quella che mette in atto sul ring. Il pezzo che voglio leggervi è quello che lui prova, è quello che gli accade dopo un match, il match più importante in cui batte quello più forte di tutti, che si chiama la capra. Finito l'incontro, riprese tutto più o meno come prima. Mi alzavo, andavo a scuola, studiavo, prendevo bei voti. Tutto però era a suo modo diverso. Tutto da un momento all'altro era vero. Forse è questo che vuol dire crescere. Rendersi conto di come stanno davvero le cose. Se ci pensi, è tanto affascinante quanto triste. E per quanto sai che non potresti vivere altrimenti, lo dici ugualmente con una vena di malinconia. Prese a piacermi pure il pianoforte. Da un momento all'altro mi resi conto che ero bravo a fare pure quello, mi piacesse o meno. E mi pareva che in qualche modo anche quel sordo maledetto di Beethoven mi riprendesse vita nelle mani. e soprattutto mi resi conto che era gran musica. Sì, continuai anche ad allenarmi, ma pure quello era diverso. Adesso ero davvero il più forte, non c'erano dubbi. Ma ero forte come tutti i pugili, come tutti gli uomini. Non di quella forza patinata e surreale del mito, ma di quella puzzolente e sudata dell'uomo. Era un po' come là fuori. Adesso ero davvero uno sfigato che non riusciva a vivere come si deve. Non ero nessun personaggio misterioso da fumetto, nessun Peter Parker o Clark Kent, pronto a salvare il mondo con i suoi pugni d'acciaio. Adesso ero solo uno come tanti che non veniva invitato alle feste e non aveva il motorino e non poteva fare più tardi di mezzanotte. E faceva poca differenza se c'era un pezzo di mondo quadrato in cui me la battevo con la capra. Questo non mi cambiava gli abiti indosso e non mi risolveva la vita. Caro Matteo Caccia, la capoeira è una tecnica di combattimento, non un ballo, firmato Andrea. Però Andrea, se non sbaglio, era una tecnica di combattimento che era, nascosta dietro a un ballo, per cui gli schiavi, mi pare, fingevano di ballare in modo da non dare nell'occhio, ma in realtà si allenavano a combattere. Però dico cose che non so, quindi se qualcuno ne sa di più 349-238-6666 o anche voi siete qui @radio24.it. Dal momento che finiamo qui, io ringrazio Paolino Corleoni, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Stefano D'Andrea. Ringrazio soprattutto Stefano perché oggi era la sua storia e anche lui è un punto rosso su una mappa. Mi chiamo Gabriele Avanzinelli, abito a Mörs, vicino a Duisburg, in Germania. La storia di domani è la mia e parla di Franziska che aspetta seduta ad un caffè. Questa è la mia storia ed io sono qui.